Attenzione, binario 10, copiate Antonio, KK. Che c'era su tutti i canali, sui canali alti, fuori di Gabbo, eh? Già lo so, già. E dove ti arrivo con l'apparecchio? Allora, questo smitter sei 9 più 40, che è anche il massimo. 9 più 40. Credo che non vada oltre, comunque, nessuno è mai arrivato oltre. Via. Ma perché? Pompa in DJ. Anche non si vede. Ma non me ne accorgo con questo apparecchio, Antonio, un apparecchio che uso poco. Modulazione tutto a posto, sì. 1, 2, 3, 4, 5. Tutto a posto. Aspetta un attimo che lascio un attimo giù nel bagno e rivengo subito. E già, vai a cambiare l'acqua alle olive, vai. Un casino, insomma. Non ho potuto nemmeno provare a chiamare perché qua è tutto strano. E poi mi manca un cavetto. Se devo mettere lo strumento, mi manca un cavetto. Attenzione, binario 10, copiate Antonio dalla Sardegna che fa chiamata K. Papà, io ti sento, arrivi in Sardegna, KK, le tue coordinate dove sono? Cosa hai detto? Sud di Espo. Allora, Anto, questi in FM me lo coprono, me lo annientano. papà, facciamo i bravi giovanotti, qua, che io devo farmi il largo, capito avete, eh? Capa, ci sono qua gli amici in FM che mi stanno, ogni tanto non ti sento perché mi stanno ammazzando. Capa, capa, come arrivo e quale coordinate? Capa, capa, e anche qua arrivi tu più o meno quel segnale lì. Facciamo i bravi giovanotti, se no qua alziamo, andiamo in coppa 200, cambio. Capo, qui la cosa è tutta bella la cosa. C'è un altro mio amico qui dalla Sardegna che ti supercordializza. Avanti Marco. C'ho 10 watt ancora, non credo che mi senta. Anzi, sicuramente non mi sente l'amico. Capo, amico lo senti? Amico Marco. Capo, amico Marco ti supercordializza, capo, ci risenteremo, ci risentiamo, capo, ok, avanti Marco, avanti il break, avanti. Che ti ascoltiamo qua, vieni avanti, vieni l'amico. Che casino. Capa, quanto bailiamo qua, facciamo i bravi, facciamo. Attenzione, binario 10, copiate Antonio e Bombolo, capa, capa. Sì che ti ho mandato un video, ma. Marco. Sì, aspetta che lo guardo. Cos'è quello? Una o due valvole? Vabbè, dimmelo al telefono. Ok. Miseria questo baracchino, ecco perché mi dava errore, sono in modalità memorie, mi sono trovato sul 20 e non capivo il perché, vai non ammala. Ecco capito, capa adesso un po' di meno il segnale. Sì, 9.35, conta che a LED questo è, non so se lo conosci sto apparecchio, se busco le foto te lo mando. Capa, capa, ecco io ti devo salutare che devo aiutare a Sara. Al limite ci sentiamo dopo, ok? Sì, se capita mi fra poco io mangio. Ci sentiamo Anto, io tanto sto aprendo un pacco Amazon. Ciao, buona serata. Ciao, ciao. Ciao Gianfranco, avanti. Mi dai un controllo di segnale anche di radio? Sono un po' male. Tra 8 e 8 e mezzo. Passiamo alla pena perché ci sono stazioni in FM che ti coprono quasi. Sì, dopo c'è anche un cadetto che... Caspita, benissimo, soprattutto la modulazione. La modulazione è buona per essere un portatile, visto che adesso tutti li fanno che escono bassi, tranne qualche eccezione. Bene. Ciao Marco. Di quelli spalleggiabili, aspetta, ho sentito un brecco, credo. Tolgo lo squelce che passa malapena anche lui. Chi è? Avanti. Ciao Marco, me l'ho ascoltato, Franco da Sosso, mi ascolti? Sì, fra, c'è questo in FM che mi ammazzendi. C'è Gianfranco con portatile, gli ho dato un controllo. Tu stai arrivando, sì, alle soglie del 9. Quando non parla quello, sei pulito e libero e limpido. Ciao, va bene, dai, parla con Gianfranco. Saluta Gianfranco, non so se lui mi ascolta. Salutamelo, io non lo sento. Franco, non so chi stai parlando, dai. Se mando di sambare in ascolto, dai, perché c'è molto anche il QRM, molta propagazione. Sono entrato solo per salutarti, Marco. Ciao! Ciao Franco, sì, oggi c'è un aboluto, c'è tutta Europa, qui i canali alti, FM, USB, di tutto e di più, però è un bel ame così, non si riesce quasi a chiamare. Saluti anche da Gianfranco. Franco, sei ancora all'ascolto, ciao. Sì, sono all'ascolto, grazie, ricambiati, ciao. Ti sente bene anche in portatile? Davvero? Io a lui zero, va bene, dai. Ma vuol dire che sta funzionando l'antenna. Ehi, ha voglia, segnale credo sia il tuo solito. Ciao Fra, buona serata, buoni di ex se li stai facendo, ciao. Ciao. Marco, puoi salvare l'antenna? Naturale. ultimamente c'ha problemi alla grande, perché esce benissimo questa radio. Mi senti, Marco? Sì, ciao Claudio, ben sentito dopo tanto. Allora, il segnale anche qua è 9+5, ti avevo già sentito, arrivavi 9+5 al 3009, anche qua sei intorno al 9+5, questo è un po' più secco, e non dà picchi di modulazione, mentre con il 3009 hai anche picchi in positivo. Ho sentito che l'antenna è da alzare, quindi sicuramente poi arriverà meglio. Vai Claudio. Sì, se ne ho voglia la metterò a posto, se no già rimane così, Marco, non è che mi interessi più di tanto. Come ho già detto a tutti, ho già dato, adesso fate voi, sì. Gianfranco, riprendi? Sì, vediamo se Claudio mi sente. Un'istanza chiara, ero in molto meno perfetta. Sto cucinando, c'è un caldo, non ti riprendi, Claudio? Sì, ascolto tutti, non dimenticate che non sono così messo male, è che purtroppo sono in una vallata, ma sono a 400 metri di altezza, non è che sono così basso. Ok, va bene, tu Marco arrivi 9+10, va bene così, dai. Sto usando il K di Giulio, domani glielo devo restituire perché è arrivato... Me ne sono occupato io, quindi è arrivato a me, ok? Sì, ho sentito qualcosa, Ia. Sembra che vada bene, l'importante è non parlare magari troppo forte. Io ho 10 watt utili, sarebbero 12, ma il filtro passa basso, sì, mi ruba 2 watt, quindi 10 watt utili. Apparecchio il 7009 CRT K. C'ho anche la voce afona. No, va bene, arrivi 9+10. No, va bene, ferma, mi sono dimenticato di staccare il processore, sennò è troppo forte. Qua in AM dovrebbe essere la mia solita modulazione, dai. Sì, in AM va bene. Allora, in FM Gianfranco era non perfetto, di più, era una cosa meglio di una telefonata, come se fosse dal vero, in effetto presenza mi. Vai Gianfranco. Sì, perché questo è stato con l'FM, sono presente che va anche in 31, 32, 33, 34, 35 MHz, 100, 100, 120, 130, 140, 50 Hz, quindi è chiaro che si è curato molto per quello che riguarda la FM. Ovviamente va anche in banda laterale, oltre che in digitale. Ah, è roba sofisticata, non è roba della 27, un apparecchietto, dai, sarà PRC, che la serie lì, dai. Claudio? Non lo sento più Gianfranco io Gianfranco non lo sento più. Ha chiesto cosa c'è dietro Tissi, che paese c'è dietro Tissi? Non lo so, ma io non sono a Tissi. Sì, la propagazione va e viene, anzi adesso ancora si è un po' affievolita, ma prima non copiavo quasi Franco di Sorso, che arriva a 9. Bella giornata, io il giretto me lo sono fatto quando c'era meno casino, perché poi sarà stato un carnaio, e poi mi stavo ascoltando DX, roba del genere, ma troppo voluto, troppo, tutta Europa, capito? Non faceva chiamare. E poi ho solo 30 watt in banda laterale, ma ha risposto giusto un olandese, giusto perché era un canale libero, mi ho chiamato e ha risposto subito, ma se andava a chiamare l'Italia c'erano stazioni su stazioni, una sopra l'altra. Bene, vai Claudio. Lo so, c'è un bel propagazione, poco fa stavo ascoltando, c'è propagazione anche in HF, sono andato a salutarvi, continua con Gianfranco, intanto io a Gianfranco non lo sento più, ok? Ci sentiamo semmai più tardi quando abbassa la propagazione. Eia, sì, credo che lui ti senta. Copiato Gianfranco, casomai rientra più tardi Claudio quando la propagazione scende, anche perché prende la testa a questi livelli. E anche se metti lo squelcio ogni tanto si apre, si chiude, quindi ti mangia il cervello questa propagazione. Riprendi Gianfra? Sì, lui mi sente sempre perché mi ha messo in spalla, ovviamente mi ha fugato anche un braccio, Claudio, ci sentiamo dopo, quando sento che vado in ballo, se male. No, Gianfra, io quando ho detto spalleggiabile, io credevo fosse quegli apparecchi CB spalleggiabili, quelli anni 70, no? Tipo Midland 77 barra qualcosa, ti ricordi? Che avevano la custodia porta pile anche. Se dovrebbe dare una centina di watt, però ci va la batteria al piombo dentro, perché se l'ho potuto comprare perché la sua costa, già lo sai, quindi non sono potuto adattare. E niente, si attaccò quello, però dovrà passare anche la batteria e sentirà anche il piattone, anche non tira l'aria, questa giornata l'ha prenotata di brutto, era tutta affogata. Guarda che era da andare in spiaggia e mettersi in costume e abbronzarsi oggi. Bene, io c'ho freddo, io sono in camicia e vabbè una maglietta sotto, ma ho un po' di frescolino qua c'è, si sta molto molto bene, vabbè. No, io sono a maniche corte, comunque non è cambiato niente, mi confermi, mi metto in spalla, quindi il lavoro di modifica l'ho fatto a tutti, ma che la porta a un'altra, la considerazione era poi guardare non per la 27, per la 27 sono una scena che si cina. Sì, infatti non, certe volte non hanno criterio. Ti volevo dire, sei sceso appena appena tra 7 e 7 e mezzo, diciamo, c'è una stazione estera che ogni tanto riprende, penso sia in FM, e un po' ti disturba, dai. Io staccherei adesso pochino perché sì, è l'ora della colazione, come tu sai. E mi stavo a prendere un pacchetto Amazon, ancora non ho controllato tutto. Ci sentiamo più tardi se entri. Qua la lascio come monitor. Ok, ci sentiamo, ciao. Marco, ci abbiamo ancora, non so, 3-4 minuti di tempo, poi il tempo di riscendere, ma il problema è bloccato solamente qua. Ascolta, non è che adottiamo un altro canale, magari Alfa, perché ti stanno coprendo le stazioni di fuori. Consiglierei i bassi, se ci riescono i bassi, è molto meno gente. Ci sei? Sì. Allora, prova 27.095, sarebbe l'11 alfa. Dico che è un disturbo costante, i canali bassi, cioè che sembrano abbastanza pulizi. Sì, sì, dimmi la frequenza, io vado, la cerco. Sì, io ho 75, proviamo. Sì, allora 26.875, ok, adesso la cerco. Hola, attenzione al canale 10, c'è qualcuno, cambio. Hola, attenzione 10. Hola, Coca-Cola. Ciao Antoine. Ciao già. E in Nuesese. A casa sono. modulando, non è possibile fosse in macchina. E allora, festeggiando oggi stai, no? No, oggi niente. Sei andato al mare. Ah, se si stava bene, c'era caldo, vero? Domani ci rivado, secondo come mi gira. Ma ti sei fatto il bagno? Faccio così. Sì, il tempo è bello, dovrebbe aver messo bello tutta la settimana, tranne mercoledì mi pare. Per carità, ma domani se ci scendo, e si cusineva, se ci scendo, non sono sicuro. Ma si può andare, dove si è andato al mare? Alla rotonda. Nel comune di Sassari la rotonda, sicuri? Ma certo che sono sicuro. No, perché c'è stato un periodo che c'era un battibecco tra il comune di Sosso e quello di Sassari, perché Sosso diceva che nella piantina c'era anche la rotonda come suo territorio, perché stavano mettendo la multa alle macchine, quelli di Sassari, e volevano rimborsare le multe che avevano a Sosso. Ugabo, Vani, Ruzinchi. Vabbè, non lo so, però così diceva, la situazione mi hanno detto, vero? Ah, non è vero, non si può fare. C'è un po' di propagazione in giro. Già ho sentito, già. Sto scendo con il Ruiz, come va? Bene, bene, già. Cavaga, vada. Rucchio quando lo fai, troppo bello. Che cosa? Sì lui, mi riempi l'occhio adesso quando lo vedo. Gappa, ora, e il segnale come sono? Cosa? Di segnale a fondo scala. Questo è secco, guarda, prova. 9 3 prova. E 9.25, sì. Ma secco a vero, berome. Secco di segnale, bisogna regolarlo, dai. Ma questi americani sono tutti così, sono un po' sicchi. Eia. Cosa ti stavo dicendo? Beh, cosa mi racconti di bello? Niente. Poi ti racconta. Hola. Niente di particolare. Ho fatto un giro. Siamo ritornati e via. Siete ritornati presto? Ah, andiamo buia. Ma avete passeggiato o siete stati in spiaggia? Ho passeggiato lì e qui ce lo fa mandare da una persona. Andate a Polallo. Nuda. Andiamo a luce. Sì, stavo dicendo attenzione. Attenzione collega, ci ascolti l'isola della Sardegna che chiama, cambio. Attenzione alla frequenza, l'isola della Sardegna fa chiamata e si sintonizza in ascolto. Breco. Sta salendo la propagazione, là, non tu. Capa. Beh. Attenzione, copiate Antonio il Bombo che fa chiamata dalla stazione di Sassari, KK. Beh già, io non lo sento. Ma qui adesso poco fa ha chiamato, ha detto attenzione, e poi non l'ho più sentito. Boh, sto provando a vedere se riesco a sentirlo. Attenzione, canale 10, ascoltate l'isola Sarda che chiama, cambio. Ciao Gio, mi senti, sì? Sì che ti sento, Luca. Cazzo, un segnalone che hanno qua, eh. Raga. Andiamo, che? Attenzione, copiate la Sardegna che fa chiamata Antonio Bombolo da Sassari, KK. Macaroni con la bocchetta. Non è propagazione forte, dai, no? Non è forte, perlomeno qua non è forte. E bassa, eh. Arriva quella forza. Bassa, parlato con Luca. In Sicilia, ho parlato in Calabria, ho parlato con la Germania. Gianni, ti aspettano la risposta tua, il computer è a posto. Sì, scusami, ma non ho avuto tempo di rispondere solo da una cosa all'altra. Sì, grazie a Dio, sì, è tutto a posto. Magari il coso che, come si chiama, Windows 7, che magari non può aggiornare, e forse era meglio mettere il 10, che ho pensato molto. No, il 10, ma allora ti spiego, il 7 va ancora, c'è ancora l'XP che funziona, va su internet, pensa che se non va il 7 che l'hanno appena disattivato, non fa più aggiornamenti, ma va comunque, lascialo stare perché leggerlo poi, quando sarà si mette il 10. Infatti, no, ma per quello che la sto usando, non mi sta cantando anche a lei. Sarò basso. Il modulo sta cantando perché c'ha l'impianto, adesso si è comprato un impianto professionale, lo attacca al computer e canta. Eia. Allora, ripeto, se tu li metti 7 lo appesantisci ed è più lento, Io se porto il vostro budo lunedì, me lo porti, però ti sto dicendo che diventa pesante. È pesante per quel computer, vero? Secondo te, un 10 va bene su un PC nuovo, recente, tipo quello che c'ha Marina, c'ha un Asus i5 di processore e una scheggetta. Ma quello è nuovo, mi diceva solo quella roba lì e basta, non è che... ma non so quanto... Il grido non vi grido. Il mio l'ha pagato 1000 euro. 90 euro l'ha pagato, a seconda mano. E pensavo nuovo, quel computer costava 800.000 euro nuovo. Sì, ma l'ha comprato da una che lo usava in ufficio e gliel'ha venduto perché se l'ha preso nuovo, c'era quel problema del tastino e gliel'ha dato. E adesso è tornato nuovo. Le cose di fare bene, se no le puoi bannuta. Ma tirate una tastiera nuova, già. Allora tu conta, no, originale la paghi intorno ai 20 euro. Quella originale mi sa che costa intorno ai 40, 45 euro. L'originale, se tu vai su internet e la vedi, l'originale deve essere al 100%. Quella è originale al 100%. No, già va bene, dai. C'è una bella tastiera perché non è manco scolorita, niente, è nuova. Tu sei un disegno, cioè, avanti anche tu. Adesso ho tornato a questo, Aluia, e ci metti il gocco. Hai sentito, sì? Sì, ya. Per forza deve essere contenta, super contenta. Tu conta che, adesso non è che ti voglio dire, però per quella cifra lì io sono l'ho formato, secondo chi è, ma bastano. Specialmente quando ha attaccato l'impianto che l'ha sentito funzionare. E ti grida, Allora praticamente quello PC è stato manomesso, io l'ho aperto, il sistema operativo, no? E ho visto che c'erano molte cose spostate, non sono stato lì a perdere tempo, infatti io ti ho detto già, secondo me conviene mettere Windows 10 e sei a posto qua. Allora, quel PC l'unico problema che ha, sai cosa? Che è dovuto dall'Asus, quando va a resettarlo, io mi sono dimenticato di dirlo, si vede la webcam a testa in giù. E il discorso è, per il momento mai tanto lo usa su quella webcam, è vero? Non lo usa quella webcam già, giusto? La webcam? No, non lo usano. Comunque l'unico problema è quello. Perché quando vai a resettarlo con quel modello lì, poi vai, fai tutto quello che devi fare, e la webcam se non fai gli aggiornamenti oppure trovi il driver che non si trova neanche, capito? Il suo originale, che si va la testa in giù, allucinante, ma c'è dentro il computer no. Chi è tu ragazzi di Zen? Avanti, chi è? A chi giochi? Carmen! Gianni, Danilo da questa parte. Ciao Dani. Ciao Danilo. Andiamo volando con Dani, che? Dove andiamo? Ciao. Ebbene Danilo. Ciao a tutti. Stavo facendo un pochino di QSO in canali molto più alti. Tre bei collegamenti già li ho fatti, da. Anche io. Dove Dani, dimmi. Cazzo già, sei quasi sul vero, la massa te ne scenda. Allora distaccando, se no non sono io. Secondo te non ero quasi sul zero. Però tu sei sul più, Antu. Tra il più e il coso. Allora già, Torre Squalo è praticamente la lineare, in linea d'aria è vicinissimo, proprio si vedono le antenne. Perché se va l'interrato si vede l'antenna sua. Beh, tu non ci credi, Don Franco non ce la fa visto un camione. Questo è l'Uris, questo che si usa là adesso, come sta andando? Una bomba, Chiaro, no, io l'ho attaccato, sto andando con poca potenza adesso. Si attacca appena appena che dà, Giulia. Ma è bello sempre da vederlo, è sempre bello da vedere. Sì, sì, la pensavo avuto pure io quello. L'ho provato a Roberto Quadrato, con l'orologio, tre strumenti. È uscito uno, Giulio l'avevo fatto i fianchetti perché i suoi originali erano tutti messi male. E Claudio me l'aveva incipaccato. Era uscito nuovo di pacca. Ma tu hai avuto proprio lui? Sì, sì, c'era Roberto Quadrato. E ho mandato questo qua, il Typhoon, in cambio. Ma non sai lui quanto è costato? 230 euro. Ma non me ne ha fatti, ma era un ferrovecchio lui da me. Ma l'ho regalato un fatto, ma non mi tollo. Arrangiatelo. Ma l'ho tutto sistemato per me, lampadine, tutto. L'avevo tutto rimesso a posto. Praticamente tu ce l'hai presente una vecchia 500, quando tu la prendi e l'hai rimessa messa male. Così era quello. Tutto di proprio c'era di nuovo. Ma guarda, Roberto c'era, fatti mandare le foto, nuovo. Il mio è lo stesso, il mio è nuovissimo, è tenuto bene, era di un amatore, capito, che c'aveva in vetrina, c'ha tutti questi apparecchi, ha detto che neanche altri da dare, perché adesso sta passando la radio amatore e stanno tutti gli apparecchi della 27 per fare spazio per gli apparecchi radio amatoriali. E allora comprate, avanti Dani. Meno male, mi. Ma cosa lui? Cosa ti stai prendendo? Io no, per il momento niente. No. Ne abbiamo già parlato cosa devo fare, Dani, no, capisci a me? Memmo. No, anzi, ieri ero intenzionato a prendermi un 991. 991. Ehi, mi sa di sì. Il tipo alla fine ce l'ha venduto, la bagaglia sua. 991 quale sarebbe? Quello della IAESU. Ah, ho capito. Allora, su quel sito dei CB, baracchi da vicolo, una cosa del genere, c'era in vendita un S980 come il mio, però dentro c'era il putto. Praticamente c'aveva la mascherina del 980 proprio col putto. E funzionava tutto, me l'ha fatto vedere, cosa stavano salando 110 euro. Però voleva il bonifico, io non mi sono fidato. E lui, l'FT991. Quello cazzo c'ha il frutto dentro e la mascherina del 980. Cazzo è bellino però come l'hanno fatto. Sì, lo so. Vabbè che non troppo, mi pare che adesso comincia a vendere un po' di radio. Taglio duplica, troppe. No, 2, 3, 4, 5. Sì, cazzo non li vuoi, so io. Certo. La collezione di serventi. C'ho Ruiz, c'ho il Cobra, quello che esce con 100 watt, c'ho il Dassi Saturneco, c'ho la base Intec, poi c'ho, come si chiama, non mi viene adesso, aiutami tu Luca, quello che ci abbiamo preso uguale. Ah, il Superstar 3009. Il 3009, ecco, che non mi veniva il nome. Insomma, ne ho, tutti, sono tutti, bastavano 2, 3, basta. Le stazioni di base solo qua bastavano, poi tutto il resto in più. Le antenne non ne servono a nessuno, no? Che cosa? Antenne? Non so. Io sono al completo di antenne, c'ho quella della macchina, c'ho quella del tetto, per il momento no. Però se nessuno gli servono. Che tipo di antenne? Doveva piazzarla l'antenna, poi ha preso una boomerang, non so se gli sta andando bene perché non l'ho più sentito. Prova a accennargliela, se lo senti. Ti dici che. Ce le ha Luca le foto, anche a Roberto Quadrato. Sono nuove, ancora in cielo fa. C'hanno ancora l'imballo di quando erano in negozio. Ma cosa, una gran player? anche allo studio? No, preferisco un'antenna, è piccola come antenna. Oberhalb von der Wand. Wer hat denn das von beide? Non tutti ce l'hanno grande, è piccola, 2 metri qualcosa, non c'è. Io ce l'ho come il negro, 7 metri e 40 centimetri. Io ce l'ho grande, Dani. Come la mia, non c'è, come, no, non ne ha nessuno, 12 metri. Beh, allora la mia 7 più 4, 11, di un metro mi frighi, Dani. È nuda, vabbè, ma non lo so levare, io ce l'ho il palo per farlo. Tu conta, sono l'antenna a 7 metri, poi ci metterò, io adesso altri 5 metri di palo, se metti di palo e ti butto. Ma non per molto, mi. Se metto un piccolo tralicetto io vado oltre. Beh, vabbè, tu vuoi fare uno, cazzo, un tralice in più, cazzo, ma ritari. No, ci sto pensando se mettermelo o no un tralicetto, però carrellato, così quando c'è vento prendo l'abbasso e non devo rompere le scatole a Lennart. Andiamo, che? Mi ha pompo, ci senti in mezzo al bailame? A voi.